La cosa è molto precisa nella riscrittura che sta facendo il governo Draghi del Recovery Plan, in particolare nel capitolo che è dedicato alla tutela del territorio e delle risorse idriche. Lì viene proprio previsto esplicitamente, sotto il nome ormai deleterio di riforma, il fatto di spingere ulteriormente sulle privatizzazioni, in particolare nel Mezzogiorno. Quello che lì c'è scritto e si capisce bene è sostanzialmente creare le condizioni, anche in modo cogente, sostanzialmente per dare il Mezzogiorno alle grandi multiutilite del Nord, in particolare A2A, IREN, ERA e ACEA, le quattro grandi sorelle che sono state protagoniste dei processi di privatizzazione. Col nuovo Recovery Plan sostanzialmente si dice: bene, è arrivato il momento di estendere la privatizzazione e completarla in tutto il paese a partire dal Mezzogiorno. E quindi il nostro giudizio non può che essere molto negativo, anche perché siamo ormai a 10 anni di un referendum sostanzialmente disatteso. Disatteso con diversi trucchetti anche per chiamare in un altro modo la remunerazione del capitale, che poi sono i profitti dei privati appunto in bolletta. Assolutamente sì, da parte dell'agenzia di regolazione ARERA è stata fatta a suo tempo una modifica tariffaria che sostanzialmente ha chiamato la remunerazione del capitale riconoscimento degli oneri finanziari, ma ancora oggi c'è un 7% praticamente di profitti garantiti nelle bollette. Sostanzialmente la stessa situazione di prima del referendum, quindi un fatto molto grave. E per quanto riguarda le privatizzazioni, io ricordo sempre, il referendum un effetto l'ha avuto, non possiamo pensare che non sia servito a nulla, nel senso che la legge che abbiamo abrogato col referendum avrebbe portato alla privatizzazione completa entro il 2011. Però diciamo che sostanzialmente è stato semplicemente ritardato un processo che adesso si vorrebbe completare. Però noi appunto qua ci siamo ancora, siamo 10 anni dal referendum, continuiamo a chiederne l'applicazione. Da questo punto di vista, a Bologna c'è una scadenza importante. Alla fine di quest'anno scade la concessione a ERA del servizio idrico. Il momento della scadenza della concessione è il momento migliore per ripubblicizzare. Sarebbe importante che appunto che a 10 anni del referendum da Bologna venisse un segnale di inversione di tendenza, e cioè la pubblicizzazione del servizio idrico. A livello nazionale il forum sta contribuendo a quello che è un recovery planet, perché appunto è basato su altre strategie rispetto a quello del governo Draghi, e che Società della Cura sta portando avanti. In particolare voi avete sostanzialmente riscritto la parte che riguarda il servizio idrico. Cosa prevede? Sì, noi abbiamo riscritto il capitolo tutela del territorio e tutela della risorsa idrica come forum italiano di movimenti per l'acqua, dentro la cornice che ricordavi te, che è una riscrittura completa del recovery plan. In particolare il capitolo che parla di tutela del territorio e della risorsa idrica, nella versione quella di Conte, che è l'ultima diciamo conosciuta, stanziava 15 miliardi. In realtà di questi 15 miliardi la grandissima parte erano già risorse stanziate in essere, e quindi in realtà c'era molto poco sulla tutela del territorio, molto poco sulla tutela della risorsa idrica, soprattutto indirizzata sul fatto di fare nuovi invasi, che è una scelta contraddittoria rispetto invece alla necessità prioritaria di risparmiare la risorsa idrica. Infatti noi abbiamo riscritto quel piano puntando soprattutto alla ristrutturazione delle reti idriche. Abbiamo calcolato che bisognerebbe costruire un intervento di circa 10 miliardi nell'arco dei prossimi 5 anni per ammodernare completamente le reti idriche. Di questi 10 miliardi abbiamo stimato 7 miliardi e mezzo di risorse pubbliche e 2 miliardi e mezzo che dovrebbero provenire dai profitti dei soggetti gestori, che appunto che non fanno la ristrutturazione delle reti idriche, invece che è bene che vengano chiamati a concordare appunto per fare questa opera assolutamente fondamentale se vogliamo guardare appunto al risparmio della risorsa acqua. La privatizzazione costruisce profitti garantiti, non dà risposte sul piano degli investimenti e contribuisce ulteriormente all'incremento delle tariffe del servizio idrico. E quindi da questo punto di vista invece la pubblicizzazione vuol dire togliere i profitti, fare sul serio un servizio di qualità in termini appunto di servizi che vengono offerti ai cittadini, e anche risparmiare sulle tariffe. E questo è esattamente quello che è successo dove si è proceduti in quella direzione. E l'esempio che ho in mente, che è quello più eclatante, che risale ancora 10 anni fa, è quello che ha fatto la città di Parigi. Parigi ha ripubblicizzato, da quel momento le tariffe sono scese di circa il 7-8%, invece sono incrementati gli investimenti. Da noi si segue la strada inversa, si segue la strada appunto di far fare profitti alle grandi multiutility quotate in borsa, il cui obiettivo non è dare servizi ai cittadini, ma, come si dice, massimizzare il valore per gli azionisti. Anche per questo motivo, appunto, noi invece continuiamo a dire che l'esito referendario deve essere attuato e applicato.